Osborne non si alzò al suo ingresso. Era troppo esausto, troppo provato nei sentimenti e anche troppo offeso dalle missive arrabbiate e sospettose di suo padre. Se in quell'istante gli fosse andato incontro manifestando una qualunque emozione, sarebbe potuto cambiare tutto. Invece egli attese che il padre lo vedesse prima di pronunciare una sola parola. Tutto ciò che lo squire disse quando il suo sguardo cadde infine su di lui fu: «Voi qui, signore?» E troncando le istruzioni che stava impartendo a Molly, lasciò immediatamente la stanza. Per tutto il tempo il suo cuore aveva agognato il primogenito, ma l'orgoglio di entrambi li tenne a distanza. Però lo squire andò subito dal maggiordomo e gli disse quando e come Mr. Osborne fosse arrivato e se avesse preso qualcosa da mangiare, la cena o altro, da quando era entrato in casa. «Mi pare di dimenticarmi tutto», lamentò il pover'uomo mettendosi una mano sulla testa. «Per la vita mia, non mi ricordo se abbiamo cenato o no. Queste lunghe notti e tutto questo dolore e questa attesa mi disorientano. Forse, signore, desiderate mangiare qualcosa insieme a Mr. Osborne? Mrs. Morgan manderà su i piatti immediatamente. All'ora di cena non vi siete neanche seduto, signore, perché pensavate che la signora avesse bisogno di qualcosa. Sì, adesso mi ricordo. No, non voglio più niente. Servite a Mr. Osborne il vino che preferisce. Forse lui ci riesce a mangiare e a bere». E lo squire salì le scale con il cuore pieno di dolore e di amarezza. Quando furono portate le luci, Molly rimase colpita dal cambiamento di Osborne. Appariva macilento ed esausto, forse per via del viaggio e della preoccupazione. Non aveva neppure l'aspetto del gentiluomo raffinato, come Molly aveva pensato quando l'aveva visto l'ultima volta in visita alla sua matrigna 2 mesi prima, ma adesso lui le piaceva di più. Il tono delle sue affermazioni le piaceva di più. Era più semplice e si vergognava meno di mostrare i suoi sentimenti. Chiese di Roger con calore e con ardente impazienza. Roger non c'era, si era recato ad Ashcombe a gestire una transazione per conto dello Squire. Osborne desiderava evidentemente che tornasse e dopo aver cenato ciondolò inquieto in salotto. «Siete certa che io non possa vederla stasera?» chiese Molly per la terza o quarta volta. «No, davvero. Se volete torno di sopra, ma Mrs. Jones, l'infermiera mandata dal dottor Nichols, è una persona molto determinata. Sono salita mentre stavate cenando, ma Mrs. Hamley aveva appena preso le gocce e non doveva essere disturbata per nessuna ragione. Non poteva vedere nessuno né agitarsi». Osborne continuò a camminare su e giù per il lungo salotto, parlando in parte tra sé e in parte con Molly. «Vorrei che Roger fosse qui. Sembra l'unico a volermi dare il benvenuto. Mio padre vive sempre di sopra, nelle stanze di mia madre, Miss Gibson». «Sì, da quando lei ha avuto l'ultimo attacco. Immagino si rimproveri per non essersi allarmato a sufficienza prima». «Avete sentito le parole che mi ha detto? Non erano proprio accoglienti, vero? E la mia cara mamma, che sempre, sia che fossi da biasimare o no, suppongo sia certo che Roger torni a casa stanotte». «Certissimo. Voi starete qui, vero? La vedete spesso mia madre o questa infermiera onnipotente tiene fuori anche voi. Sono 3 giorni che Mrs. Hamley non chiede di me e io non entrerò nella sua stanza se non invitata da lei. Credo che venerdì tornerò a casa mia. Mia madre vi voleva molto bene, penso». Dopo un po' egli aggiunse con una voce il cui tono comunicava un'enorme portata di acuto dolore: «Suppongo, sapete se sia lucida, se sia in sé. Non è sempre cosciente», rispose Molly con tenerezza. «Deve assumere molti narcotici, ma non delira mai, dimentica solamente e dorme». «Oh, mamma, mamma!» esclamò lui, fermandosi all'improvviso e appoggiandosi al camino, le mani sulla mensola. Quando Roger rincasò, Molly ritenne fosse il momento di ritirarsi. Povera ragazza, era quasi ora che lasciasse quella scena di afflizione nella quale non era più di alcuna utilità. Singhiozzò fino ad addormentarsi quel martedì sera. Altri 2 giorni e sarebbe stato venerdì e lei avrebbe potuto strappare le radici che aveva lasciato crescere su quel terreno. Il mattino dopo il tempo era bello e la mattina il sole rinfranca nel cuore dei giovani. Molly era in sala da pranzo a preparare il tè per i gentiluomini quando essi scesero. Non poteva fare a meno di sperare che lo squire e Osborne riuscissero a riappacificarsi prima che lei se ne andasse. Dopotutto, infatti, nel litigio tra padre e figlio il dolore era peggiore di quello della malattia mandata da Dio. ma anche se si incontrarono al tavolo della colazione, i due evitarono di proposito di rivolgersi l'uno all'altro. Forse il naturale argomento di conversazione fra loro in quel momento sarebbe stato il lungo viaggio che Osborne aveva affrontato il giorno prima, ma egli non aveva mai rivelato il luogo dove si trovava, se a nord, a sud, a est o a ovest, e lo squire non voleva fare allusioni a questioni che potessero disvelare ciò che il figlio intendeva nascondere. Ancora una volta, nella mente di entrambi persisteva l'idea inespressa che l'attuale stato di salute di Mrs. Hamley fosse stato aggravato, se non proprio causato, dalla scoperta dei debiti di Osborne, e di conseguenza molte domande e molte risposte a quel proposito erano tabù. In verità, i loro tentativi di dialogo si limitarono ad argomenti di natura locale ed erano indirizzati principalmente a Molly o a Roger. Un simile rapporto non generava alcun piacere e nemmeno amichevolezza, sebbene la sottile superficie esteriore indicasse serenità e cortesia. Molto prima che la giornata volgesse al termine, Molly desiderò aver accettato la proposta del padre di tornare a casa. Pareva che nessuno avesse bisogno di lei. Mrs. Jones le assicurava di tanto in tanto che Mrs. Hamley non aveva mai fatto il suo nome, e per via della presenza costante di un'infermiera nella stanza della malata, i suoi piccoli servigi non erano richiesti. Osborne e Roger sembravano totalmente presi l'uno dall'altro e ora Molly capì, quando le brevi conversazioni avute con Roger le avessero fornito qualcosa a cui pensare nel corso delle sue giornate solitarie. Osborne era molto educato ed espresse con estrema cortesia persino gratitudine per le sue attenzioni nei confronti della madre, ma non sembrava desideroso di confidarle i sentimenti più profondi del suo cuore e quasi si vergognava dello sfogo emotivo della sera precedente. Le parlava come un gradevole giovanotto parlava una piacevole signorina, ma Molly ne era quasi irritata. Solo lo Squire sembrava darle importanza. Le dava lettere da scrivere, piccole fatture da calcolare, e lei avrebbe voluto baciargli le mani per la riconoscenza. Giunse l'ultimo pomeriggio della sua permanenza a Hamley Hall. Roger era uscito per un impegno per conto dello Squire. Molly si recò in giardino ripensando all'estate precedente, quando il divano di Mrs. Hamley veniva portato sotto il vecchio cedro nel prato e l'aria tiepida pareva profumare di rose coltivate selvatiche. Ora gli alberi erano spogli, l'aria pungente gelata non esalava alcuna dolce fragranza e guardando in alto verso la casa si scorgevano le tende bianche che chiudevano il cielo invernale fuori dalla stanza della malata. Poi pensò al giorno in cui suo padre le aveva comunicato la notizia del secondo matrimonio. Il boschetto era un intrico di erbacce morte, brina e ghiaccio, e il bel ricamo sottile dei rami e dei rametti si intrecciava con i delicati virgulti in una nudità che si stagliava distinta contro il cielo. Avrebbe mai potuto essere così disperatamente infelice? Era la bontà o il disorientamento a farle credere che la vita fosse troppo breve per preoccuparsi così tanto di qualcosa? La morte sembrava l'unica realtà. Non aveva né l'energia nel cuore di camminare lontano rapidamente, così ritornò sui suoi passi. Il sole del pomeriggio splendeva vivido sulle finestre e, stimolata a un'attività inusuale per una qualche sconosciuta ragione, le cameriere avevano aperto gli scuri e i vetri della biblioteca, generalmente deserta. La finestra centrale era anche una porta, il legno dipinto di bianco era aperto per metà. Molly svoltò sul sentierino lastricato che conduceva oltre le finestre della biblioteca, fino al cancello con le inferriate bianche di fronte alla casa ed entrò attraverso le porte aperte. Le era stato dato il permesso di scegliere qualunque libro desiderasse leggere e di portarlo via con sé, e quel pomeriggio questa era esattamente l'attività poco impegnativa che si accordava ai suoi gusti. Salì sulla scaletta per raggiungere uno scaffale particolarmente posto in alto, in un angolo buio della stanza. E trovando lì un volume che le pareva interessante, sedette sul gradino per leggerne una parte. Era appollaiata lì con indosso il cappellino e il mantello quando Osborne entrò all'improvviso. Da principio non la vide, anzi, sembrava andare così di fretta che probabilmente non l'avrebbe neanche notata se lei non avesse parlato. «Vi sono d'intralcio? Sono venuta qui solo per un minuto a cercare dei libri», disse lei, scendendo gli scalini e tenendo ancora il volume in mano. Niente affatto, sono io che vi sto disturbando. Devo scrivere solo una lettera per la posta e poi me ne andrò. Non fa freddo per voi con questa porta aperta? Oh no, è fresco e gradevole. Si rimise a leggere, seduta sul gradino più basso della scala, e lui si mise al tavolo sullo scrittoio ampio e antico, addossato alla finestra. Seguirono un paio di minuti di assoluto silenzio, in cui il rapido graffiare della penna di Osborne sulla carta era l'unico rumore. Poi si udì lo scatto del cancello e Roger apparve sulla porta aperta. Il suo volto era rivolto a Osborne, che sedeva sotto la luce, la sua schiena molle e accovacciata nel suo angolino. Il giovane allungò una lettera e annunciò rauco senza fiato. «C'è una lettera di tua moglie, Osborne. Sono passato dall'ufficio postale e ho pensato...» Osborne si alzò, furore e sconcerto dipinti sul suo volto. Roger, che hai fatto? Non la vedi? Roger si girò e Molly si mise in piedi nel suo angolo, rossa, tremante, avvilita come una colpevole. Roger entrò nella stanza. Tutti e tre sembravano ugualmente sgomenti. Molly fu la prima a parlare, fece un passo avanti e disse: Mi dispiace tanto. Non volevate che sentissi, ma non ho potuto evitarlo. Ma vi fidate di me, vero? E rivolgendosi a Roger aggiunse con le lacrime agli occhi: Vi prego, dite che sapete che non lo dirò a nessuno. Non possiamo far altro, sentenziò cupamente Osborne. Ma Roger, che sa quanto sia importante, avrebbe dovuto guardarsi intorno prima di parlare. È vero, ammise il fratello, sono più arrabbiato con me stesso di quanto immagini. Non che mi fidi di voi, meno che di me stesso, assicurò Mo a Molly. Sì, ma riprese Osborne, vedi quante possibilità ci sono che anche la persona con le migliori intenzioni possa lasciarsi sfuggire ciò che per me è fondamentale tenere segreto. So che la pensi così, ribatté Roger. Beh, non ricominciamo questa vecchia discussione in ogni modo, non di fronte a una terza persona. Nel frattempo Molly aveva faticato a trattenere le lacrime. Ora che si faceva riferimento a lei come una terza persona, in presenza della quale la conversazione doveva essere limitata, disse. Me ne vado. Forse non avrei dovuto trovarmi qui. Mi dispiace tanto, tanto, ma cercherò di dimenticare quello che ho sentito. Non potete, protestò Osborne, ancora rude. Ma mi promettete che non ne farete menzione mai a nessuno? Neanche a me o a Roger? Tenterete di agire e di parlare come se non aveste udito niente? Sono sicuro, da ciò che Roger mi ha raccontato di voi, che se farete questa promessa potrò contare su di voi. Sì. Lo prometto, disse Molly, tendendo la mano in segno di accordo. Osborne la prese, ma come se fosse un gesto superfluo. Lei aggiunse: Penso che avrei dovuto fare così, anche senza la promessa, ma forse è meglio stringere un accordo. Me ne vado ora. Vorrei non essere mai entrato in questa stanza. Posò molto delicatamente il libro sopra il tavolo e si volse per lasciare la stanza, ingoiando le lacrime finché non fosse stata nella solitudine della propria camera. Ma Roger fu sulla porta prima di lei, la tenne aperta per lei e lesse, lei lo sentì, lesse il suo viso, le tese la mano e la sua stretta salda espresse sia vicinanza che rimpianto per quanto accaduto. Fece fatica a reprimere i singhiozzi prima di raggiungere la propria camera da letto. I suoi sentimenti erano da lungo tempo oppressi senza poter trovare nell'azione il loro sfogo naturale. Prima di allora, lasciare Hamley Hall le era parso così triste. Ma adesso era tormentata dal fatto di dover mantenere un segreto che non avrebbe mai dovuto conoscere e la nozione del quale la caricava di una responsabilità pesantemente scomoda. A quel punto sorgeva la naturalissima domanda di chi fosse la moglie di Osborne. Molly non era stata così a lungo e così in confidenza con la famiglia Hamley senza essere perfettamente consapevole del modo in cui ci si immaginava la futura padrona di casa. Lo Squire, per esempio, in parte per dimostrare che Osborne, il suo erede, era fuori dalla portata di Molly Gibson, la figlia di un medico, durante quei primi giorni in cui non la conosceva bene, aveva spesso fatto allusioni al magnifico, altolocato e opulento legame che gli Hamley di Hamley, rappresentati dal brillante, intelligente e affascinante figlio Osborne, si aspettavano di contrarre. Anche Mrs. Hamley, inconsapevolmente, rivelava i progetti che costantemente escogitava per accogliere la futura e sconosciuta nuora. Il salotto dovrà essere riarredato quando Osborne si sposerà, oppure la moglie di Osborne gradirà avere per sé le stanze sul lato ovest. Forse per lei sarà difficile vivere con due anziani, ma noi faremo in modo che ne soffra il meno possibile. E, ovviamente, quando arriverà la signora Osborne dovremo tentare di procurarle una carrozza nuova. Quella vecchia va piuttosto bene per noi, queste, e e simili frasi avevano dato a Molly l'impressione che la futura moglie di Osborne sarebbe stata una giovane signora bella e di alto rango, la cui stessa presenza avrebbe trasformato la vecchia Hamley Hall dalla piacevole e informale casa che era in una magione solenne e cerimoniosa. E Osborne, che con Mrs. Gibson aveva languidamente criticato varie belle ragazze di campagna, e anche a casa propria aveva la tendenza a darsi delle arie, solo che a casa le sue arie erano poeticamente pignole, mentre con la signora Gibson erano state socialmente schizzinose. Quale bellezza indescrivibilmente elegante si era scelto come moglie? Chi lo aveva soddisfatto? E chi, pur soddisfacendo lui, doveva sopportare che il matrimonio rimanesse un segreto per i genitori del marito? Alla fine Molly si sforzò di interrompere queste lucubrazioni. Era inutile, scoprirlo non poteva. Non avrebbe neanche dovuto provarci. Il muro vacuo della promessa le bloccava la strada. Forse non era neanche giusto porsi delle domande, cercare di ricordare discorsi vaghi o riferimenti casuali a un nome per ricomporli insieme in qualcosa di coerente. Molly temeva l'idea di rivedere i due fratelli. Invece si incontrarono tutti a cena come se non fosse successo niente. Lo squire era taciturno per malinconia o per contrarietà. Da quando Osborne era tornato, non aveva dialogato con lui se non per le più sciocche banalità e solo quando era impossibile non parlargli, e le condizioni di sua moglie lo opprimevano come una pesante nube che spegnesse la luce del giorno. Con il padre, Osborne assunse un atteggiamento indifferente che Molly era certa non fosse sincero, ma in ogni caso non era conciliatorio. Roger, silenzioso, equilibrato e genuino, parlava più degli altri, ma anche lui si sentiva a disagio ed era nervoso per varie ragioni. Quel giorno si rivolse principalmente a Molly, intraprese descrizioni piuttosto lunghe delle sue recenti scoperte in campo scientifico che riuscivano a mantenere viva la conversazione senza richiedere repliche considerevoli da parte degli altri. Molly si era aspettata che Osborne apparisse diverso dal solito, pensieroso, pieno di vergogno, di rimpianto, sposato, ma lui era esattamente l'Osborne di quella mattina. Bello, elegante, languido nei modi e nell'aspetto, cordiale con il fratello, educato con lei, segretamente a disagio per la natura dei rapporti con il padre. Non avrebbe mai indovinato che quel comportamento così normale nascondesse un idillio sentimentale. Aveva sempre desiderato venire a contatto diretto con una storia d'amore e ora che c'era arrivata la trovava una cosa molto scomoda. Il tutto era pervaso da un senso di occultamento e di incertezza, e suo padre, così onesto e diretto, e la vita quieta di Hollingford, che pur con i suoi svantaggi trascorreva alla luce del sole, e dove tutti sapevano ciò che facevano gli altri, apparivano al confronto piacevoli e sicuri. Naturalmente provò un gran dolore a lasciare Hamley Hall e a dire addio senza una parola alla sua amica addormentata e incosciente, ma separarsi ora da Mrs. Hamley era diverso da ciò che sarebbe stato 15 giorni prima. Allora la sua presenza era richiesta in ogni momento e lei sentiva di poter offrire conforto. Adesso la sua stessa esistenza era come dimenticata dalla povera donna, il cui corpo sembrava sopravvivere così a lungo all'anima. Fu riportata a casa in carrozza, carica di sinceri ringraziamenti da parte di ciascun membro della famiglia. Osborne saccheggiò la casa di fiori da regalarle. Roger aveva scelto per lei libri di tutti i tipi. Lo squire continuò a stringere la mano, senza riuscire a esprimere la sua gratitudine, finché alla fine la prese fra le braccia e le diede un bacio come se fosse stata sua figlia. Capitolo 19. L'arrivo di Cinzia. Il padre di Molly non era in casa quando lei tornò e non c'era nessuno a darle il benvenuto. I domestici le comunicarono che Mrs. Gibson era fuori in visita. La ragazza salì nella propria stanza con l'intenzione di disfare i bagagli e sistemare i libri che aveva ricevuto in prestito. Con una certa sorpresa notò che la camera di fronte alla sua era stata spolverata e che la si stava rifornendo di acqua e asciugamani. «Sta arrivando qualcuno?» chiese la cameriera. «La figlia della signora, dalla Francia, Miss Kilpatrick, sarà qui domani». Finalmente Cinzia stava arrivando. Oh, che gioia sarebbe stato avere una compagna, una ragazza, una sorella della sua stessa età! Lo spirito depresso di Molly si risollevò con brillante elasticità. Non vedeva l'ora che Mrs. Gibson rientrasse per sapere tutto. Doveva essere stata una decisione improvvisa, perché il giorno prima a Hamley Hall Mr. Gibson non le aveva accennato nulla in proposito. Non era il momento giusto per leggere in tranquillità e i libri furono riposti quasi senza l'usuale metodicità di Molly. Ella scese in salotto e non riuscì a dedicarsi a niente, Finalmente la matrigna rincasò, esausta per aver camminato con indosso il mantello di velluto pesante. Fino a che questo non fu tolto ed ella non si fu riposata per qualche minuto, non le fu quasi possibile prestare attenzione alle domande di Molly. Oh sì, Cinzia arriva domani con l'Empire che passa alle 10. Che giornata opprimente per questa stagione! Sto quasi per svenire. Credo che Cinzia sia venuta a sapere di una qualche posizione ed era anche troppo felice di lasciare la scuola 15 giorni prima di quanto avessimo previsto. Non mi ha mai dato l'opportunità di scriverle se approvassi o non approvassi che tornasse a casa con tanto anticipo e dovrò pagare la sua retta esattamente come se fosse rimasta lì. Avevo intenzione di chiedere di portarmi un cappellino francese, così poi tu avresti potuto fartene fare uno simile al mio. Ma sono molto contenta che stia per arrivare, povera cara. Ha qualche problema? Chiese Molly. Oh no, perché mai? L'avete chiamata povera cara e questo mi ha fatto temere che fosse ammalata. Oh no, è solo un'abitudine che ho preso quando è morto il signor Kirkpatrick. Una ragazza orfana di padre, sai. Le si chiama sempre povere care. Oh no, Cinzia non si ammala mai, è forte come un cavallo. Non avrebbe sofferto per questa giornata come me. Puoi portarmi un bicchiere d'acqua e un biscotto, mia cara? Mi sento veramente debole. Mr. Gibson era molto più eccitato per l'arrivo di Cinzia di quanto lo fosse la madre. Parlando con Molly, sulla quale, nonostante le recenti nozze e la nuova moglie si concentravano principalmente i suoi interessi, egli aveva presagito che quella presenza sarebbe stata una gioia. Trovò persino il tempo di correre di sopra a vedere le stanze delle due ragazze, per il cui arredamento aveva speso fior di quattrini. Bene, suppongo che alle giovani signore piacciono le camere da letto decorate in questo modo. Non ci sono dubbi, ma. Papà, a me la vecchia camera piaceva di più, ma forse Cinzia è abituata a tutti questi ornamenti. Forse, in ogni caso, si accorgerà che abbiamo tentato di renderla graziosa. La tua è come la sua. Questo va bene. L'avrebbe ferita se la tua fosse stata più elegante. E adesso passa una buona notte nel tuo letto frivolo e raffinato. Molly si alzò presto, quasi prima del sorgere del sole, per sistemare i bei fiori di Hamley nella stanza di Cinzia. Quella mattina riuscì appena a fare colazione. Corse di sopra e si infilò gli abiti per uscire, pensando che fosse certo che Mrs. Gibson si recasse alla locanda George, dove si fermava l'Empire per incontrare la figlia dopo 2 anni di lontananza. Ma con sua sorpresa, Mrs. Gibson si era disposta davanti al grande telaio per la lana pettinata, come al solito, e rimase a sua volta stupefatta vedendo Molly con indosso mantello e cappellino. «Dove te ne vai così presto, bambina? Non si è ancora alzata la nebbia?» «Pensavo di andare incontro a Cinzia, volevo accompagnarvi. Sarà qui tra mezz'ora. Il caro papà ha ordinato al giardiniere di portare giù la carriola per i suoi bagagli. Non sono sicura che non ci sia andato personalmente». Dunque, voi non andate? Chiese Molly molto delusa. Certo che no, sarà qui tra un momento. E inoltre non mi piace mostrare i miei sentimenti ai passanti nel mezzo di High Street. Dimentichi che non la vedo da 2 anni e detesto le scene nella piazza del mercato. Si rimise al lavoro e Molly, dopo aver riflettuto un poco, rinunciò a sua volta ad andare e si dispose a guardare fuori dalla finestra del piano di sotto che dava sulla strada proveniente dalla città. Eccola! Eccola! Strillò finalmente. Suo padre stava camminando al fianco di una giovane alta. William, il giardiniere, spingeva una carriola stracolma di bagagli. Molly volò alla porta d'ingresso e la spalancò per accogliere la nuova venuta qualche minuto prima che arrivasse. Bene, eccola qui! Molly, questa è Cinzia. Cinzia, Molly. Sarete sorelle, sapete? Molly notò la figura bella, alta, graziata, stagliarsi alla luce della porta aperta, ma non riuscì a vedere nessuno dei suoi allineamenti che per il momento erano in ombra. Un improvviso attacco di timidezza si era impadronito di lei proprio in quell'istante e frenò l'abbraccio che un attimo prima avrebbe voluto donarle. Ma fu Cinzia a prenderla tra le braccia e a baciarla su entrambe le gote. «Ecco la mamma», disse, guardando dietro Molly, Mrs. Gibson in piedi sulle scale, avvolta in uno scialle tremante per il freddo. La giovane superò di corsa Molly e Mr. Gibson, che quasi distolsero lo sguardo da questo primo saluto fra madre e figlia. Mrs. Gibson disse: Beh, come sei cresciuta, cara, sembri quasi una donna. E lo sono, ribatté Cinzia. Lo ero prima di andarmene. Sono cresciuta poco da allora, eccetto si spera che In saggezza. Sì, speriamo, commentò Mrs. Gibson in tono piuttosto significativo. Per la verità, le loro frasi apparentemente banali davano l'idea di allusioni nascoste. Quando tutti si ritrovarono nella piena luce, nella quiete del salotto, Molly si smarrì nella contemplazione della bellezza di Cinzia. Forse i suoi tratti non erano regolari, ma i mutamenti sul suo volto così eloquente non davano il tempo di accorgersene. Il suo sorriso era perfetto, il suo broncio incantevole, il fascino del suo volto era nella bocca. La forma degli occhi era bellissima, ma la loro espressione sembrava quasi non variare. I colori non erano dissimili da quelli della madre, ma la sua carnagione mancava dell'intenso rossore dell'altra, e i suoi occhi grigi, seri e dal disegno allungato, erano orlati da frange di ciglia scure, a differenza di quelle bionde scialbe della madre. Molly, per così dire, si innamorò di lei all'istante. Cinzia sedette a scaldarsi le mani e i piedi, completamente a suo agio, come se fosse stata lì da sempre. Non prestava particolare attenzione alla madre, che continuava a studiare lei o il suo abito, ma esaminava Molly e Mr. Gibson con sguardo attento e solenne, come per capire se le sarebbero piaciuti. In sala da pranzo c'è una colazione calda preparata per te quando sarai pronta, le comunicò Mr. Gibson. Sono certo che ne avrai bisogno dopo aver viaggiato tutta la notte. Si voltò a guardare la moglie, la madre di Cinzia, ma ella non sembrava intenzionata a lasciare di nuovo la stanza riscaldata. Molly ti accompagnerà nella tua stanza, cara, disse. È vicina alla sua e anche lei deve togliersi il mantello e il cappello. Scenderò con te in salotto mentre fai colazione, ma adesso temo veramente il freddo. Cinzia si alzò e seguì Molly al piano di sopra. Mi dispiace tanto che non ci sia un fuoco acceso per te. Si scusò Molly, ma suppongo che non sia stato ordinato e naturalmente io non do ordini. Però qui c'è dell'acqua calda. Fermati un attimo, le disse Cinzia, prendendole entrambe le mani e guardandola dritta in viso, ma in un modo tale che a Molly quell'esame non dispiacque. Penso che mi piacerai. Sono così felice. Temevo di no. Noi due ci troviamo in una posizione davvero imbarazzante, vero? Però mi piace l'aspetto di tuo padre. Molly non poté fare a meno di sorridere per come questa frase fu pronunciata. Cinzia ricambiò. Ah, puoi ridere, ma non so se sono un tipo facile con cui andare d'accordo. L'ultima volta che siamo state insieme io e la mamma non ci siamo trovate bene, ma forse siamo tutte e due più sagge oggi. Ora ti prego, lasciami sola per una quindicina di minuti. Non mi serve altro. Molly passò nella propria camera in attesa di indicare a Cinzia la sala da pranzo. Non che trovare la strada fosse complicato in quella casa di dimensioni modeste, sforzandosi un pochino di pensarci su, un estraneo avrebbe scoperto qualsiasi stanza. Ma Cinzia aveva conquistato Molly, a tal punto che quest'ultima desiderava dedicarsi completamente al suo servizio. Sin da quando aveva appreso della possibilità di avere una sorella, lei la definiva sorella. Ma se si trattasse di una sorella scozzese o di una sorella alla mode Bretagne, era una questione che avrebbe confuso molte persone. Molly aveva svegliato la fantasia al pensiero dell'arrivo di Cinzia e nei brevi momenti che avevano trascorso insieme aveva subito l'inconsapevole fascinazione della ragazza. Ci sono persone che hanno questo potere. Naturalmente i suoi effetti si manifestavano solo sui caratteri suscettibili. In ogni scuola si trova un'allieva che attrae e influenza tutte le altre, non per le sue virtù, né per la sua bellezza, né per la sua dolcezza o la sua intelligenza, ma per qualcosa che non si può descrivere e su cui non si può ragionare. È quel qualcosa di cui si parla negli antichi versi. Non amarmi per grazia e avvenenza, per i miei occhi e il mio bel volto. No, neppure per il mio cuor costante. Sono cose che possono cambiare e decadere, distruggendo così un amore sincero. Ma continua ad amarmi senza un perché, per avere allora ancora un motivo di adorarmi per l'eternità. Una donna può esercitare questo fascino non solo sugli uomini, ma anche su altre donne. Non è definibile, anzi, è un complesso così delicato di tante doti e di qualità da rendere impossibile determinarne le proporzioni. Forse è incompatibile con gli altri principi. Perché la sua essenza sembra consistere nel più squisito potere di adattarsi a persone mutevoli e a umori ancor più cangianti, di farsi tutto per tutti. In ogni caso, Molly avrebbe presto potuto rendersi conto che Cinzia non era un campione di salda moralità, ma la malia esercitata su di lei le avrebbe impedito ogni tentativo di penetrare e giudicare il carattere della giovane, anche se questi processi fossero stati discordi con la propria disposizione d'animo. Cinzia era molto avvenente e ne era così consapevole da dimenticarsi di preoccuparsene. Nessuno che vantasse una simile bellezza sembrò mai averne così scarsa coscienza. Molly la osservava continuamente, mentre lei si spostava per la stanza con il passo libero e solenne di un qualche animale selvaggio della foresta. Sembrava quasi, per così dire, muoversi al suono di una musica. Anche il suo abito, per quanto oggi dal nostro punto di vista potrebbe apparire brutto e sformante, donava alla sua carnagione, alla sua figura e alla sua foggia, si accordava doverosamente al suo gusto squisito. Era piuttosto economico e mostrava solo poche modifiche. Mrs. Gibson si professò scioccata quando seppe che Cinzia aveva solo 4 vestiti, quando invece avrebbe potuto rifornirsene per bene e riportare a casa un bel numero di utili modelli francesi, se solo avesse aspettato pazientemente la risposta della madre alla lettera con cui aveva annunciato il proprio ritorno, grazie all'occasione che Madame aveva trovato per lei. Questi discorsi ferirono Molly per Cinzia. Ella pensava che significassero che il piacere provato dalla madre nel ritrovarla 15 giorni prima del previsto, dopo 2 anni di assenza, fosse inferiore a quello che le avrebbe dato un involto di modelli su carta argentata. Ma apparentemente Cinzia non faceva caso alla frequente ricorrenza di queste piccole lamentele, anzi, accolse la maggior parte delle osservazioni della madre con una sorta di totale indifferenza, che metteva Mrs. Gibson abbastanza in soggezione e la rendeva molto più loquace con Molly che con la propria figliola. A proposito dell'abbigliamento, tuttavia, Cinzia dimostrò presto di essere figlia di sua madre, nel modo in cui sapeva usare le dita agili e svelte. Era una cucitrice eccellente, e a differenza di Molly, che era molto brava nei rammendi, ma non aveva alcuna nozione di sartoria o di modisteria, ella sapeva rifare i modelli che aveva semplicemente visto camminando lungo le strade di Bologna. Con un paio di graziosi e rapidi movimenti delle mani, ella intrecciava e arrovesciava i nastri e le velette che la madre le forniva. Così facendo rinfrescò il guardaroba di Mrs. Gibson, sempre mantenendo un atteggiamento quasi sprezzante, la cui ragione Molly non riuscì proprio ad indovinare. Dopo qualche giorno, questo procedere di piccole frivolezze fu interrotto dalla notizia portata da Mr. Gibson dell'imminente dipartita di Mrs. Hamley. Molly, che sedeva spesso accanto a Cinzia, immersa tra nastri, fili e reticelle, ascoltava i bollettini come rintocchi di una campana morte durante un ricevimento di nozze. Il padre simpatizzava con lei. Anche per lui si trattava di perdere una cara amica, ma egli era così avvezzo alla morte da considerarla, per quello che è, la parte naturale delle vicende umane. Per Molly la scomparsa di qualcuno che aveva conosciuto e a cui aveva voluto così tanto bene era un evento cupo e triste. Allontanava disgustata le vanità da cui era circondata e usciva nel giardino gelato per passeggiar lungo il sentiero protetto e nascosto dai sempreverdi. Alla fine, ma non molto più tardi, neppure 2 settimane dopo che Molly si era congedata da Hamley Hall, sopraggiunse l'epilogo. Mrs. Hamley aveva lasciato la vita con la stessa gradualità con cui era scivolata oltre la coscienza, abbandonando il suo posto in questo mondo. Le onde quiete si chiusero su di lei e il luogo dove stava non la riconobbe più. «Ti mandano tutto il loro affetto, Molly», disse il padre. «Roger Hamley ha detto che sapeva quanto ne avresti sofferto». Mr. Gibson era rientrato molto tardi e stava cenando da solo in sala. Molly sedeva accanto a lui per fargli compagnia, Cinzia e la madre erano al piano di sopra. Quest'ultima stava provando un copricapo che la figlia aveva confezionato per lei. Molly rimase da basso fino a quando il padre uscì di nuovo per l'ultimo giro di visita ai suoi pazienti. Il fuoco stava morendo e le luci andavano scemando. Cinzia entrò dolcemente e, prendendo la mano inerte di Molly abbandonata lungo il fianco, si accovacciò sui piedi sul tappeto, riscaldando le sudita gelide senza parlare. Quel gesto amorevole liberò le lacrime che si erano raccolte pesanti nel cuore di Molly e che scesero allora lungo le sue guance. «Le volevi tanto bene, vero Molly?» «Sì», singhiozzò lei. E poi vi fu silenzio. «La conoscevi da molto?» «No, neanche da un anno. Ma sono stata a lungo con lei. Ero quasi come una figlia per lei, così diceva. Eppure non le ho mai detto addio o altro. La sua mente era diventata fragile, confusa. Aveva solo figli maschi, dunque. No. Ci sono Mr. Osborne e Mr. Roger Hamley, ma una volta avevo una figlia, Fanny. Di tanto in tanto, durante la malattia, mi chiamava Fanny. Le due ragazze tacquero per un po', entrambe assorte a guardare il fuoco. Cinzia parlò per prima. Vorrei poter amare le persone come fai tu, Molly. E non è così, ribatté l'altra sorpresa. No, c'è tanta gente che mi vuole bene, credo, o almeno pensano di volermene. Ma io sembro non curarmi mai di nessuno. Penso di voler bene a te, Molly, e ti conosco solo da 10 giorni più che a chiunque altro. Non più che a tua madre, fece Molly, grave e stupefatta. Sì, più che a mia madre, replicò Cinzia con un mezzo sorriso. Direi che è piuttosto sconvolgente, ma è così. Ora, non biasimarmi, non penso che l'amore per una madre sia in assoluto un fatto naturale, e ricorda quanto a lungo sono stata separata da lei. Amavo mio padre, se si vuole, continuò con la forza della verità nel tono della voce e poi si interruppe. Ma morì quando ero una bambinetta e nessuno crede che mi ricordi di lui. Ho sentito la mamma dire a un ospite neanche 15 giorni dopo il funerale: Oh no, Cinzia è troppo piccola, l'ha completamente dimenticato. E io mi sono morsa le labbra per impedirmi di urlare. Papà, papà, è davvero così? Ma tutto questo è inutile. Beh, poi la mamma ha dovuto iniziare a lavorare come istitutrice. Non poteva evitarlo, poveretta. Ma non le interessava poi molto allontanarsi da me. Io ero un fastidio, oserei dire. Così fui mandata a scuola all'età di 4 anni, prima in una, poi in un'altra, e le vacanze la mamma andava a trascorrerle in case sontuose, mentre io ero lasciata alle cure delle mie insegnanti. Una volta fui portata alle torri e la mamma mi sgridò continuamente, ma credo di essermi comportata molto male. Perciò non ci tornai più e ne fui davvero lieta perché era un posto orribile. Lo era proprio, confermò Molly, che ricordava il soggiorno di tribolazioni laggiù. E una volta sono stata a Londra con mio zio Kirkpatrick. È un avvocato, adesso se la passa bene, ma allora era povero e aveva 6 o 7 figli. Era inverno ed eravamo tutti chiusi dentro quella casa a Doughty Street. Dopotutto, però, non andò così male. Poi però hai vissuto con tua madre quando prese la scuola di Ashcombe. Me l'ha detto Mr. Preston quando ho trascorso una giornata alla Manor House. Cosa ti ha detto? Chiese Cinzia quasi con ferocia. Solo questo. Oh sì, ha elogiato la tua bellezza e voleva che ti riportassi quel che avevo detto. Ti avrei odiata se l'avessi fatto, dichiarò Cinzia. Ovviamente io non ho mai pensato a far niente del genere, replicò Molly. Lui non mi è piaciuto e Lady Harriet il giorno dopo ha parlato di lui come di una persona che non è bene apprezzare. Cinzia taceva, alla fine riprese. Vorrei essere buona. Anch'io, disse Molly semplicemente. Stava ripensando a Mrs. Hamley. Solo le azioni dei giusti hanno un dolce profumo e fioriscono nella polvere. E la bontà, in quel momento, le sembrava essere la sola cosa durevole a questo mondo. Sciocchezze, Molly, tu sei buona, o almeno, se non lo sei tu, io cosa sono? Devi fare la proporzione, ma è inutile parlarne. Io non sono buona e ormai non lo diventerò più. Forse potrei ancora essere un'eroina, ma non sarò mai una donna buona, questo lo so. Pensi sia più facile essere un'eroina? Sì, per quanto conosciamo le eroine della storia. Io sono capace di un bel sussulto, di uno sforzo e poi il riposo, ma la bontà costante, quotidiana, è fuori dalla mia portata. Moralmente devo essere un canguro. Molly non riusciva a seguire i concetti di Cinzia, non riusciva a distogliere i pensieri da coloro che soffrivano ad Hamley Hall. Come vorrei vederli tutti, ma in momenti come questi non si può far nulla. Papà dice che il funerale è martedì e che dopo Roger Hamley tornerà a Cambridge. Sarà come se niente fosse accaduto. Mi domando come faranno Mr. Osborne Hamley e lo Squire ad andare d'accordo. È il maggiore, vero? Perché non dovrebbero andare d'accordo? Oh, non lo so, cioè, lo so, ma penso che non lo dovrei dire. Molly, non essere così pedantemente sincera. E poi i tuoi gesti rivelano quando dici la verità e quando dici le bugie, senza che ti disturbi a usare le parole. Ho capito esattamente cosa significasse quel tuo non lo so. Io non mi considero mai tenuta alla sincerità, perciò ti prego, comportiamoci nello stesso modo. Cinzia poteva bene affermare di non considerarsi vincolata alla sincerità. Diceva letteralmente la prima cosa che le veniva in mente, senza curarsi troppo della sua veridicità. Ma nelle sue deviazioni del vero non c'era malafede e generalmente nemmeno il tentativo di procurarsi dei vantaggi personali. In quelle inesattezze c'era spesso un tale latente senso di ridicolo che Molly non poteva fare a meno di divertirsi nella pratica, così come le condannava in teoria. La giocosità di Cinzia mascherava quelle imprecisioni con il fascino, e tuttavia talvolta ella era così dolce e premurosa che Molly non sapeva resisterle, neanche quando dichiarava le cose più stupefacenti. Quel breve commento sulla sua bellezza fece molto piacere a Mr. Gibson e la graziosa deferenza nei suoi confronti conquistò il suo cuore. Inoltre, le rimase inquieta fino a che non poté occuparsi dell'abito di Molly dopo aver rimodellato quello della madre. Adesso tocca a te, dolcezza, disse, mettendosi al lavoro su uno dei vestiti di Molly. Finora ho lavorato da intenditrice, ora comincio per affetto. Prese i bei fiori artificiali staccati dal suo cappellino migliore per decorare quello di Molly, dicendo che avrebbero armonizzato con la sua carnagione e che un intreccio di nastri sarebbe stato sufficiente per lei. Mentre lavorava, cantava sempre. Aveva una voce soave, come quando parlava, che eseguiva le allegre chanson francesi senza alcuna difficoltà. Era infatti molto modulata, eppure non sembrava che la musica le interessasse. Toccò raramente il pianoforte su cui Molly si esercitava ogni giorno con diligenza. Cinzia rispondeva sempre volentieri alle domande inerenti alla sua vita passata, anche se dopo la prima, da parte sua, si alludeva raramente. Ma era un'ascoltatrice molto partecipe di tutte le confidenze innocenti di Molly, delle sue gioie e dei suoi dolori. La sua comprensione era così forte che la si domandava come la ragazza potesse sopportare le seconde nozze di Mr. Gibson e perché non intraprendesse concreti atti di ribellione. Nonostante tutta questa varietà, piacevole e stimolante, della compagnia di casa, Molly provava una grande nostalgia degli Hamlet. Se nella famiglia ci fosse stata una donna, ella avrebbe forse ricevuto numerosi brevi messaggi e avrebbe appreso tanti particolari che invece per lei erano sconosciuti, o riassunti e resoconti molto condensati delle visite di suo padre a Hamley Hall, che dal momento della morte della cara paziente erano solo occasionali. Sì, lo squire è molto cambiato, ma sta meglio ora. Tra lui e Osborne c'è un contrasto inespresso, lo si capisce dal silenzio e dalla costrizione dei loro modi. All'apparenza però sono in rapporti amichevoli o almeno civili. Lo squire rispetterà sempre Osborne in quanto suo erede e futuro rappresentante della famiglia. Osborne non ha una bella cera, dice di avere bisogno di un cambiamento. Credo sia stanco del tè-à-tè domestico o del dissenso che c'è in casa, ma soffre moltissimo per la morte della madre. Mi stupisce che padre e figlio non siano attratti l'uno all'altro da questa perdita comune. Roger poi è a Cambridge. Ha gli esami finali per la laurea in matematica. In linea generale l'aspetto delle persone e anche della casa è mutato. È tutto fuorché naturale. Questo potrebbe forse essere un compendio delle notizie provenienti da Hamley, contenuto in molti rendiconti che si concludevano sempre con un messaggio gentile dedicato a Molly. Mrs. Gibson commentava generalmente la descrizione che suo marito faceva della malinconia di Osborne dicendo: «Mio caro, perché non gli chiedete di venire a cena qui? Una cenetta tranquilla, sapete, la cuoca ne è assolutamente all'altezza e tutti noi ci vestiremo di nero e lilà. Non potrà considerarla allegra». Mr. Gibson non ribatté questa proposta se non scuotendo il capo. Si era ormai abituato alla moglie e riteneva che tacere fosse un ottimo deterrente da lunghi e inconcludenti litigi. Ma ogni volta che notava la bellezza di Cinzia, Mrs. Gibson riteneva sempre più opportuno che Mr. Osborne Hamley venisse rinfrancato da una quiete cenetta. Fino a quel momento nessuno, a eccezione delle signore di Hollingford e di Mr. Ashton, il vicario, quel vecchio scapolo intrattabile e senza speranze, aveva visto Cinzia. E che beneficio si poteva trarre dall'avere una figlia bellissima se non c'erano che vecchie signore ad ammirarla? La stessa Cinzia pareva del tutto indifferente all'argomento e si curava molto poco del costante parlare da parte della madre di divertimenti che erano possibili e di divertimenti che erano impossibili a Hollingford. Si sforzò di affascinare le due signore Browning come avrebbe fatto per deliziare Osborne Hamley o qualunque altro erede. Ovvero, non si sforzò affatto, ma seguì semplicemente la propria natura, che era quella di attrarre chiunque fra coloro fra i quali capitava si trovasse. Anzi, Lo sforzo sembrava piuttosto quello di limitarsi in questo frangente, protestando, come faceva spesso, con mezze parole e occhiate eloquenti contro le espressioni e gli umori della madre, così come contro la sua sciocchezza e le sue carezze. A Molly quasi dispiaceva che Mrs. Gibson, che appariva così incapace di esercitare la propria influenza sulla figlia. Un giorno Cinzia lesse i pensieri di Molly. «Non sono buona, te l'ho detto. In un certo senso non posso perdonarla di avermi trascurata quando ero piccola, quando mi sarei attaccata a lei. Inoltre, mentre ero a scuola, non si faceva quasi mai sentire. E so che mi ha impedito di venire al matrimonio. Ho visto la lettera che ha scritto a Madame Lefebvre. Un figlio dovrebbe crescere con i suoi genitori, se si vuole che, quando sarà grande, li consideri infallibili. Ma anche se sa che ci possono essere dei difetti, osservò Molly, dovrebbe passarci sopra e tentare di dimenticare che esistono. Dovrebbe, ma non vedi, io sono cresciuta al di là dei limiti dei doveri. Amami così come sono, dolcezza, perché non sarò mai migliore di così».